Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Dai che l'ora inizia la giornata, prendiamola con filosofia. Si sente dire spesso questa espressione, ce la diciamo magari anche noi, tra noi e noi. Allora, oggi ho pensato di iniziare la giornata con un amico che forse ci aiuta davvero a prenderla con filosofia. Perché? Perché è un filosofo, è qua in studio con me, Leonardo Caffo. Ciao Leonardo, filosofo, scrittore. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, tutte quante. Tra l'altro la scorsa settimana è uscito un tuo romanzo, Il cane e il filosofo. In cui ho provato a prenderla con filosofia anche attraverso l'aiuto di un animale, per esempio. Che aiutano. Con me. Aiutano e come? Per esempio ci insegnano ritmi diversi dal nostro, quando noi corriamo da un posto all'altro, siamo stressati, andiamo a un appuntamento, eccetera, torniamo, li troviamo sempre sul divano, c'è un altro modo di stare al mondo. Insomma, è vero, no? anche il mio cane è diventato ormai un cane da divano. Proviamo a iniziare allora la giornata con un po' di filosofia, che nella nostra, nel modo di dire si prende questo messaggio, no? Lascialo un po' andare, in realtà non è esattamente così. Non è esattamente così, e più che altro, se proprio uno deve applicare la filosofia alla quotidianità, per esempio avevo scritto il La vita di ogni giorno con Leonardo, era uscito qualche anno fa, parlavo proprio di queste... E dai, però non sei venuto, allora adesso mi autospoilero, è l'idea che di fare soltanto ciò che puoi fare senza pensare che ciò che tu stia facendo sia così fondamentale per l'equilibrio dell'universo, c'è anche un pochettino ridimensionarsi e fai ciò che puoi. Cioè... In piemontese si direbbe esagerumane. Io ho la residenza a Torino, quindi riesco a cogliere un pochettino Vero? Il piemontese, quel poco che si può un quando po' sei meno, siciliani. Un po' meno, anche tu sei mezzo siciliano e mezzo piemontese come me. Sì, sono vedi? Un'altra ibridato. Parentela, vedi, anche un filosofo costruiamo come cugino. Iniziamo già quindi a considerare le cose che facciamo nel loro, no? Ma come se altro... non fossero, sì. Possiamo fare la differenza, ma insomma soprattutto che senso ha provare a fare più di ciò che si può fare se poi ci si ammala, ci si stressa e comunque poi non riusciremo a fare manco quello che dobbiamo fare il giorno dopo. Cioè la società frenetica in cui viviamo, quella è, non la possiamo cambiare, ahimè, con una piccola pillola filosofica, però l'idea di provare davvero a ridimensionarsi, a ridimensionare quello che si può fare. Cioè la filosofia è anche l'idea di imparare a stare al mondo, avere una postura per stare nella realtà. Per avere questa postura bisogna anche, come dire, selezionare gli obiettivi. Se li fai tutti male è un problema. E allora aiutaci, perché io ti ho invitato apposta. Pillole filosofiche no, però dalla saggezza degli antichi qualche trucchetto possiamo estrapolarlo. Ma io per esempio ho il cane già mi piace, perché no, pure io ho il cane e devo dire che Il cane è un grande cane gatto, insomma ognuno avrà un animale guida con cui vive. In realtà dagli altri animali, io questa è una cosa che ho cercato di dire molto spesso, impariamo il fatto che non esiste solo il nostro modo di stare nel mondo. Cioè noi ci siamo messi all'interno di una prospettiva per cui pensiamo con candore che questo è il modo in cui si vive nella realtà. Da A a B, mi sveglio la mattina, vado a dormire la sera, lavoro nel centro, certo dobbiamo campare, dobbiamo pagare gli affitti, i mutui, non facciamo cose naif o approcci strampalati. Per esempio io da quando ho provato a organizzare le mie giornate in questo modo ho fatto delle liste ogni giorno di quello che devo fare e gli metto accanto un punteggio di urgenza da 1 a 5. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo e molte delle cose che avevano un punteggio basso le ho cominciate a eliminare, le ho tagliate perché non erano così importanti. Per esempio il caffè per un eventuale appuntamento di lavoro che dopo un po' ho imparato non andava da nessuna parte ma mi faceva ammazzare per andare da un punto A a un punto B della città, via, non è così importante. Ho capito che era più importante avere 5 minuti per stare in più con la mia compagna, con la persona a cui voglio bene, perché questa cosa mi faceva star meglio e poi mi faceva andare agli miei appuntamenti importanti con voglia, con ricaricato. Noi siamo pieni di cose non urgenti, continuiamo a dire che si lavora anche per visibilità, che si lavora anche per curriculum, che poi non significhi mai che cosa, non sai mai che cosa significhi, no? Che si lavora anche perché intanto vedi cosa, cosa succede, e tante volte lavoriamo a gratis, come si dice tecnicamente, e ci riempiamo di cose da fare che non portano da nessuna parte. Siamo spesso noi gli artefici del nostro stress. La filosofia ti aiuta e come a selezionare gli obiettivi urgenti, anche perché ti posiziona nel mondo come un mortale, cioè prima o poi purtroppo questo gioco a cui giochiamo che si chiama vita termina. Viviamo troppo come se fossimo immortali, cioè cerchiamo di prenderci anche un po' dei tempi. Poi se uno vuole usare il mio tabellone, ben venga, è gratis anche quello, da 1 a 5. Da 1 a 5, questa già è un'idea che mi piace. Quanto è lunga la tua, quanto era lunga la tua lista di cose da fare? La lista era lunga come credo quella di tutti, nessuno ad esempio 10, 11, 12 cose da fare, anche paginate. No, spesso c'erano giornate con 15, 16 obiettivi che andavano da quelli che abbiamo tutti, il fare la spesa o il comprare determinate cose che servono a casa, eccetera, al fare le lezioni all'università, scrivere, ma poi c'era anche appuntamento con lo scrittore o con il giornalista per eventuale collaborazione, tutte cose che non portavano negli anni mai da nessuna parte e potevano essere risolte con una telefonata di 2 minuti. Bravo, diamo un taglietto, un taglio netto. Mamma mia, questi filosofi. L'essenziale, una parola l'essenziale. Meravigliosa. Dopo la lista che cosa ci suggerisci? No, la lista secondo me è la vera cosa, perché la lista se ne chiama a catena delle altre. Per esempio nella lista sono cominciate a entrare delle cose che mi sembravano secondarie. Faccio un esempio su tutti: una passeggiata al mare se si sta vicino al mare, la passeggiata nel bosco se si sta vicino al bosco, tutte cose che mi sembravano inutili rispetto alla giornata frenetica, impegnata e importante che avessi, in cui dovevo sistemare il post per pubblicare il mio ultimo libro o cose del genere. Cioè mi sono accorto, votando me stesso, che cose che a cui davo una cosa secondaria. Noi abbiamo un detto terribile: prima il dovere, poi il piacere. Certo, ma il dovere è dovere, spesso ci imponiamo dovere e allontaniamo piacere. Questo è il vero secondo consiglio. Cioè, non si può vivere e lavorare bene se non si è ritagliato del tempo che sia per sé nel senso più profondo possibile. Non si tratta tanto di fare la meditazione un quarto d'ora prima di andare al lavoro o il tapirulan 22 minuti. Questa è una saggezza che arriva dalla filosofia, che viene anche comunque supportata e divulgata dalla psicoterapia. Assolutamente. Beh, la filosofia si somiglia con tante cose. Vero. Anche perché le ha partorite, cioè i psicologi vengono dalla filosofia, no? Freud che cos'era? Intanto si era laureato in medicina, buon uomo, poi è diventato, ma una volta si non me lo trattare però così. Ma io sono un grande fan. Però fino a un po' di tempo fa, molti dei psicanalisti da cui noi andiamo sono laureati in filosofia, perché fino a un po' di tempo fa si poteva fare, poi dopo è introdotta un modo è diverso. È sempre più attuale la filosofia. È attuale perché noi cerchiamo di, vero, di pensarla come una cosa lontana, quella che studiavamo a scuola, Socrate, Platone, abbiamo anche magari faticato, invece è così intrecciata alla quotidianità, è contemporanea, perché è proprio dentro l'uomo, perché ti porta a vedere nelle cose la loro condizione di siamo tutti un po' filosofi? C'è un filosofo che sonnecchia dentro di noi anche se non lo sappiamo? Secondo me, come dire, le condizioni del dubbio sono dentro ogni essere umano. Poi la filosofia come disciplina, ahimè, è una disciplina come le altre, uno se la deve studiare, però siamo qua, viene fuori il professore Punto è che ci possiamo anche aiutare da soli. Non c'è sempre bisogno di un aiuto esterno, non c'è sempre bisogno di un farmaco che riduca l'ansia, non c'è sempre bisogno di una terapia. Ci sono, cioè, per intendiamoci, casi e casi, però prima di tutto dobbiamo parlare un po' con noi stessi, posizionarci nel mondo, vedere che cosa facciamo durante le nostre giornate, tagliare, cambiare, modificare. Si può cambiare, non è una cosa così incredibile. E se sbagliamo? Se sbagliamo cambiamo ancora. In fondo la vita è un lungo percorso a ostacoli, come diceva Charlie Brown. Cioè da qualche parte ci devi arrivare. Beh, si sbatte. Quanto è filosofo Charlie Brown. Sì sì, i Peanuts, come si suol dire, sono stati grandi maestri di vita. Allora Leonardo, grazie per essere stato con noi. Leggerò Il cane e il filosofo. Era un cane piccolo il tuo, un cane grande? Era un cane meticcio. Un cane meticcio? Un incrocio, un labrador pastore tedesco. Sarà di nuovo un altro cane ospite della tua casa? Imparerai la filosofia canina? Se il libro funziona, no. Se il libro funziona, è troppo no. Il dolore quando si perde un animale. È vero. Leonardo, grazie per essere stato con noi. Noi ci diamo invece appuntamento. Fate sta lista da voto da 0 a 5. Quando ha un voto basso, un punteggio non mi date basso, 0, via. Troppo spesso vi si abbassa l'autostima. Partite da 1, dai. Da 1, ecco, vedi anche questo. Io vedi, già sbagliavo. È un attimo che cala l'autostima. Noi ci sentiamo a mezzogiorno, come sempre, per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi per una nuova diretta Facebook. Tornerai a trovarmi? Beh, invitami. Anche se i giornalisti ho capito che li tagli, eh? No, non è vero. Non tutti. Sono quasi la sua preferita, è vero? Eh sì, ma poi Radio 24 è vicino a casa. Dai, ah, perfetto. Grazie, buona giornata a voi.